Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge Caro Michele di Natalia Ginzburg. Mi sembra completamente cretina, disse Ada. Non completamente, disse Osvaldo. Sì, completamente, disse Ada. Non è cretina, è solo balorda, disse Osvaldo. Non afferro la differenza, disse Ada. Comunque due uova al burro le saprà fare, disse Osvaldo. Conosco la madre della signora Peroni, è una persona semplice. Non si tratta solo di uova al burro, disse Ada. La vecchia signora Peroni la conosco io meglio di te. Non è una che si accontenti facilmente. Vuole la casa in ordine, i pavimenti lucidati a cera. Non me la vedo quella lì a lucidare i pavimenti. Poi quel bambino che piange, darà fastidio. Non sapevo come aiutarla, mi faceva pena con quel bambino, disse Osvaldo. E così hai pensato di metterla sulla schiena delle Peroni, disse Ada. Le Peroni amano i bambini. Sì, amano i bambini che vedono passare in carrozzella Villa Borghese, non quelli che urlano la notte in casa loro. Osvaldo aveva mangiato da Ada. Ora erano nel soggiorno e lui incollava per Elisabetta dei francobolli in un album. Ada lavorava a maglia. Elisabetta era con una sua amica sulla veranda. Giocavano a carte. Erano sedute in terra e giocavano in silenzio e con estrema serietà. «Inutile incollare quei francobolli», disse Ada. «È buona di incollarseli da sé e ci si diverte anche». Osvaldo chiuse l'album con un elastico. Andò accanto ai vetri e guardò fuori. Tutto intorno al soggiorno girava la veranda a vetri con grandi vasi di piante. Ma Elisabetta era assorta nel gioco e non alzò la testa. «Quella zalè è diventata meravigliosa», egli disse. «Lo sai che io ho il dito verde? Non è mica una cosa nuova. Quando me l'hanno portata sembrava morta. Era in casa del padre di Michele. Me l'ha portata il cameriere. La stavano buttando via». Lui ha pensato di portarmela qui. Si vede che lui qualche volta pensa. Qualche volta, non molto spesso. Ma non è cattivo. Ti ho insegnato a servire in tavola. Hai visto come serve bene in tavola? Osvaldo stava per dire, si vede che ha il dito verde anche con i camerieri. Poi gli parve che in queste parole ci fosse una sorta di doppio senso sessuale. Non le disse e ugualmente arrossì. «Quella tua ragazza invece non imparerà mai niente», disse Ada. «Non deve servire in tavola dalle Peroni. Mangiano in cucina tutte e tre. Di quell'appartamento dove stava in via dei Prefetti, cosa ne ha fatto?» «Niente, ci va la domenica. Il bambino lo lascia dalle Peroni e lei va in via dei Prefetti. Si riposa. Viene una sua amica a trovarla. Andrà a letto lì con qualcuno. Forse, non lo so». Dice che si è stancata di andare a letto. Ora le interessa solo il bambino. Ha smesso di allattarlo, gli dà le bottiglie. Cioè gliele dà la signora Peroni madre. Credo. Quel bambino rassomiglia molto a Michele. Sono sicura che è suo, disse Ada. Ti pare? Sì, identico. Il bambino ha i capelli neri. Michele li ha rossicci. Non contano i capelli. Conta l'espressione, la bocca. Trovo che Michele dovrebbe tornare qui e dargli il suo nome. Lo farebbe se fosse una persona onesta. Naturalmente non lo è. Non avrebbe bisogno di sposare la ragazza perché una così non si può sposare. Solo il nome al bambino. Con lo scantinato cosa pensi di fare? Non lo so, dimmi tu. Adesso ci ho messo a dormire un tale, un amico di Michele arrivato da Londra, un certo Ray. Ma credo che ripartirà fra pochi giorni. Io ho tirato il fiato quando Michele è andato via. Adesso me ne hai messo lì un altro. Non sapeva dove andare. Sta Stava da Angelica, ma il marito di Angelica non lo voleva più in casa. Hanno litigato per politica. Il marito di Angelica ha delle idee di ferro. Non tollera che gliele mettano in discussione. Se fossero davvero di ferro, gli sarebbe indifferente di vederle messe in discussione. Se si infuria perché le sue idee non sono di ferro, ma di ricotta. Lo conosco, quel marito di Angelica. Mi sembra una modesta persona, un funzionario. Uno di questi funzionari di partito che sembrano ragionieri. Non hai torto. Ho l'idea che il matrimonio di Angelica avrà vita breve. Ma oggi tutti i matrimoni hanno vita breve. Del resto anche il nostro matrimonio ha avuto una vita brevissima. È durato esattamente 4 anni, disse Osvaldo. E ti sembrano molti, 4 anni? Lei disse. No, dico quanti anni sono stati. Esattamente 4. Ti dirò la verità. Non mi piacciono questi ragazzi che girano adesso. Randagi e pericolosi. Quasi io preferisco i ragionieri. Dello scantinato in sé non me ne importa niente. Però mi secca se qualcuno me lo fa saltare in aria. Anche perché in questo caso salterei in aria anch'io che sto al piano di sopra e anche la sarta che sta all'ultimo piano, disse Osvaldo. Ma questo re non mi sembra uno che fa saltare in aria niente. Non mi sembra che abbia scoperto la polvere. Ti pregherei di non farmelo conoscere, questo re. Non me lo portare qui. Michele, tu me lo portavi sempre qui. Non mi era simpatico. Non lo trovavo divertente. Si metteva seduto e mi fissava con quei suoi occhietti verdi. Credo che mi trovasse una stupida. Ma io non lo trovavo divertente. Mi sono spesa per farlo partire. L'ho aiutato, ma non per simpatia. Per gentilezza, disse Osvaldo. Sì, e anche perché ero contenta di non vederlo più. Ho trovato enorme che non tornasse quando è morto suo padre. Enorme. Aveva paura di essere arrestato, disse Osvaldo. Di quelli del suo gruppo ne hanno arrestati 2 o 3. Lo trovo enorme lo stesso. E anche tu l'hai trovato enorme. Eri stupefatto. Perché uno si fa anche arrestare per accompagnare al cimitero la salma di suo padre. La salma, disse Osvaldo. Sì, la salma. Cosa ho detto di strano? Niente, mi sembrava un'espressione insolita per te. È un'espressione quanto mai comune. Ad ogni modo, dicevo, Michele io lo trovavo un ragazzo non divertente. Era magari gentile. Giocava con il monopoli, a verniciare i mobili. Però sotto sotto pensava che ero scema e io me ne accorgevo e mi dava noia. Perché parli di Michele all'imperfetto? Disse Osvaldo. Perché ho l'idea che non ritornerà mai, disse Ada. Non lo rivedremo più. Finirà in America. Finirà chissà dove. Cosa farà? Non si sa. Il mondo ora è pieno di questi ragazzi che girano senza scopo da un posto all'altro. Non si riesce a capire come invecchieranno. Sembra che non debbano invecchiare mai. Sembra che debbano restare sempre così, senza casa, senza famiglia, senza orari di lavoro, senza niente. Con i loro 2 stracci e basta. Non sono mai stati giovani, perciò come fanno a diventare vecchi? Per esempio quella ragazza col bambino, anche lei come farà a invecchiare? È già vecchia adesso. È una pianticella appassita. È nata appassita, non fisicamente, moralmente. Io non riesco a capire come mai una persona come te perda il tempo in mezzo a tutte queste pianticelle appassite. Io forse mi sbaglio, ma ho un'alta opinione di te. Ti sbagli, disse Osvaldo. Sei troppo ottimista su di me. Io sono ottimista per temperamento, però non riesco a essere ottimista su questi ragazzi che girano. Li trovo insopportabili. Trovo che fanno disordine. Sembrano tanto gentili, ma sotto sotto magari covano la voglia di farci saltare in aria tutti. In fondo non sarebbe un gran male, disse Osvaldo. Si era infilato l'impermeabile e si lisciava sulla testa i radi capelli biondi. Vorresti che anche Elisabetta saltasse in aria? Elisabetta no, disse Osvaldo. Quell'impermeabile tu dovresti farlo portare in tintoria, disse Ada. Certe volte parli come se fossi ancora mia moglie, disse Osvaldo. Questa frase che hai detto è una frase da moglie. Ti dispiace? No, perché? Sei tu che hai lasciato me. Non sono io che ho lasciato te. Ma lasciamo stare, non ripeschiamo vecchi dispiaceri, disse Ada. E d'altronde forse avevi ragione. La tua è stata una decisione savia. Tu stai bene solo. E anch'io sto benissimo sola. Non eravamo fatti per vivere insieme. Siamo troppo diversi. Troppo diversi, disse Osvaldo. Non ripetere le mie parole come il gatto di Pinocchio. Questo mi dà noia, disse Ada. Ora devo andare alla scuola di Elisabetta. Ho promesso a quelle maestre di fare i vestiti e i burattini per la recita di Natale. Porto là della vecchia stoffa che è dentro una cassapanca. Ti inventi sempre delle cose da fare, disse Osvaldo. Potresti restartene qui, tranquilla, tutto il pomeriggio. Il tempo è cattivo. Non fa freddo, ma tira vento. Se sto ferma qui il pomeriggio mi vengono idee tristi, disse Ada. Ciao, disse Osvaldo. Ciao, disse Ada. Vuoi sapere una cosa? Cosa? Michele sotto sotto pensava che anche tu eri scemo. Non solo io. Succhiava il tuo sangue, però dentro di sé ti dava del cretino. Michele non ha mai succhiato il mio sangue, disse Osvaldo. Uscì. Non aveva preso l'automobile e camminò a piedi sul ponte. Stette fermo un attimo a guardare le acque del fiume, di un colore giallo denso, e gli alti platani fra cui scorrevano macchine. Soffiava un vento caldo ma furioso. Il cielo era coperto di nuvole nere e gonfie. Osvaldo pensò al mitra, che Angelica gli aveva detto di aver gettato nell'acqua, non molto lontano da quel ponte. Pensò che lui non aveva mai toccato un'arma nella sua vita. Non aveva mai preso in mano nemmeno un fucile subacqueo. Del resto nemmeno Michele aveva mai toccato armi che lui sapesse. Michele era stato esentato dal servizio militare per deficienza toracica, ma anche perché il padre aveva pagato. Lui, Osvaldo, il servizio militare non l'aveva fatto perché è figlio unico di madre vedova. Ai tempi della Resistenza era un ragazzino. Erano lui e sua madre sfollati vicino a Varese. Infilò in un vicolo stretto pieno di bambini, entrò nel botteghino. La signora Peroni andava avanti e indietro zoppicando sulle sue grosse caviglie con un carico di libri. Gli sorrise. «Come va?» disse lui. «È ritornata in via dei prefetti», disse lei. «Non era mica possibile continuare così. Aiuto in casa non ne dava nessuno. Anzi, era mia madre che doveva cucinare per lei e starle dietro. Quando faceva la doccia non si ricordava di asciugare, c'erano impronte bagnate in tutta la casa. L'altro giorno è uscita e anche io e mia madre eravamo fuori e lei si è dimenticata le chiavi di casa e nella casa c'era il bambino solo che piangeva, povera creatura. Non si trovava un fabbro e la portinaia ha chiamato i pompieri. I pompieri per entrare hanno dovuto rompere un vetro. Mia madre s'era tanto affezionata a quel bambino. Però spesso lei usciva e il bambino lo lasciava lì. Toccava a mia madre cambiarlo, dargli le bottiglie. «Mi dispiace», disse Osvaldo. «Le ripagherò quel vetro. Non importa. L'avremmo tenuta con noi tanto volentieri. Era anche una buona azione. Ma non ha buon senso. Ci svegliava la notte perché l'aiutassimo a cambiare il bambino. Diceva che le faceva tristezza cambiarlo da sola. Ci svegliava tutte e due, me e mia madre, perché diceva che più persone c'erano e più sentiva conforto. Faceva anche pena. Però non si capisce perché ha voluto avere quel bambino, dato che le dà tanta angoscia di tirarlo su. Questo non si capisce, disse Osvaldo. Ma no, in fondo si capisce benissimo. Così allora oggi è andata via. Abbiamo messo il bambino dentro a quella borsa gialla. Lì non prende freddo. Le abbiamo chiamato un tassì. Mia madre ha dovuto imprestarle un golf perché non aveva niente per coprirsi. Quella casacca con quei draghi l'ha bruciata mentre la stirava. Che peccato, disse Osvaldo. Peccato, era una bella casacca, molto graziosa. Ma ci ha lasciato sopra il ferro acceso per andare al telefono. È stata a lungo a chiacchierare al telefono con una persona. Mi ha poi detto che era Angelica. Sulla casacca, proprio nella schiena, lì dove c'erano i draghi, è rimasta la bruciatura del ferro. Per poco andava a fuoco tutta la seta a stiro. Mia madre si è tanto spaventata. Io ho paura per mia madre. È vecchia. Si stancava e si spaventava. Se era per me, magari tiravo avanti. Capisco. Mi dispiace, disse Osvaldo.